scrivere, scrivere. Bring me back to life. E sono costretto a vivere tra vivere. Can you bring me back to life? Can you bring me back? Bring me back to life. Sul mic in connessione da Parma Cistatano con sì. DJ Over in studio di nuovo registriamo. Ringrazio lui se adesso sono arrivato, non dico in alto ma almeno metà classificato. Adesso stai più attento, non fare il finto fatto. Adesso stai più attento oppure avanti un altro. E se tu fai schifo e parli perché piaccio, continuo a fare rap perché tanto io so farlo. Porto le rime a Parma e sai che spacco. Tu le porti in campagna e non sai che pacco. Voglio vederti sopra quel cazzo di palco senza palle, se vuoi ne ho quattro te ne presto un paio. Voglio silenzio e rispetto per il mio minuto. E voglio un 5 dei compari per ogni barra che chiudo. Prego e fumo con la chiesa chiuso. Fossi in preti invece dell'osta dare un pezzo di fumo. Un dito medio alzato per ogni politico. Un vaffanculo al megafono per ogni critico. Porto vecchia scuola, rap paleolitico. Tu sfottimi ancora adesso che sono il tuo idolo. Do tutto me stesso in ciò che faccio. Porto questa cultura verso l'alto. E se pensate che non ce la faccio, ve lo dimostro quando sono sopra un palco. Do tutto me stesso in ciò che faccio. Porto questa cultura verso l'alto. E se pensate che non ce la faccio, ve lo dimostro quando sono sopra un palco. Nato nel 96 e sono già il tuo idolo. Ho solamente 18 anni e sono così piccolo. Se metto a confronto i più forti su una mano, tra tutte le dita io sono il mignolo. Faccio passi di miglioramenti, cammino un miglio bro. Ho molto da imparare, sono ancora micro boss. Se ride 10 euro per ogni rapper bravo. Qua a Parma avrei soltanto uno spicciolo. Scusate se quando parlo non mi è rimasta più saliva, ma c'ho l'impasto, lo sputo così bianco che quando lo guardi capisci quando sballo. Sbaglio, stiamo andando a cavallo. Sono il tuo idolo, non hanno fatto copie del mio stampo. Ho molto da dare, non vedo l'ora di scendere in campo. Tanta voglia di salire sopra il palco per far vedere voi teste di cazzo quanto valgo. Cazzo. Ma tanto io malcontento di avere 100 persone vere che dicono che c'ho talento. Che averne 1000 che dicono che spacco e alle mie spalle mi stanno tradendo. Fanculo. Do tutto me stesso in ciò che faccio. Porto questa cultura verso l'alto. E se pensate che non ce la faccio, ve lo dimostro quando sono sopra un palco. Do tutto me stesso in ciò che faccio. Porto questa cultura verso l'alto. E se pensate che non ce la faccio, ve lo dimostro quando sono sopra un palco.